Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi siamo in compagnia di Emiliano Gucci, autore del romanzo Nel vento, pubblicato da Feltrinelli. È un romanzo che mi è piaciuto moltissimo, un romanzo breve, tempo di lettura circa 2 ore e mezza, insomma va letto in un pomeriggio. Ed è importante questa notazione perché secondo me va letto tutto d'un fiato. Nel vento è un romanzo che va letto di seguito, non a puntate, diciamola così, perché è un romanzo che ha un certo ritmo, che ha un crescendo, e interromperlo insomma sarebbe veramente un peccato. Tutta la storia si svolge nell'arco di pochi minuti, perché il protagonista deve correre una gara dei 100 metri e ha così dei ricordi, ci parla del suo passato, della sua storia piuttosto travagliata. Allora Emiliano, partiamo proprio dal ritmo di questo romanzo. Io dicevo bisogna leggerlo tutto d'un fiato, tu invece per scriverlo quanto tempo ci hai messo? Beh, i tempi della scrittura non sono neanche troppo facile da definire. Io credo di avere tempi interiori molto lunghi. Cioè adesso, prima di cominciare a scrivere un romanzo, sento che dentro di me deve trovare il suo posto. Dopo è molto veloce la prima stesura. Non ti dico quanto i 100 metri, ma insomma ho l'abitudine a buttare giù tutto l'animale grosso inizialmente, mentre divento certosino, antipatico con le mie scritture in fase di revisione. Quindi dovessi dirti dalla prima all'ultima stesura sono passati forse anni. Mi è piaciuto di questo romanzo soprattutto l'incipit. Ve le leggo proprio 3 frasi brevi, incisivi. Nel 1992 mio padre uccise mio fratello nella neve. Nel 2007 ho perso Caterina per sempre. Io, per questi motivi, corro. In queste 3 righe c'è sostanzialmente un po' tutto il senso, tutta l'anima del romanzo. Iniziamo proprio dall'uccisione del fratello. Questo è un episodio che segna profondamente la vita del protagonista, perché in seguito a questo episodio decide di correre. Che cosa rappresenta per il protagonista la corsa? Intanto ti ascoltavo e pensavo, io per questi motivi ho scritto, cioè così come l'incipit muove la corsa del protagonista è stato un po' quello che in me ha scatenato poi la decisione di sì, il romanzo andava scritto. Il giorno in cui succede la tragedia della morte del fratello, nella testa del protagonista scatta un meccanismo per cui mai vorrà essere quello che era in quel giorno lì, cioè quello che il destino lo ha incontrato in quel giorno. E quindi niente, esce di casa così, come è vestito, e raggiunge a piedi il campo di atletica per incontrare l'unica persona che nella vita è il suo insegnante di educazione fisica. Lui, inadatto agli sport, specie a quelli di squadra, corre però veloce. Questa è l'unica persona che gli ha detto tu corri forte, ma male. Io se vuoi posso aiutarti e in questo darti, no, qualcosa di più. In quel momento lì, ecco, nella sua mente si affaccia questa possibilità, cioè per scacciare l'orrore a cui ha appena assistito, e poi scopriremo non essere il primo, nel senso sta vivendo una situazione sua molto scura, molto nera, ecco, la finestra del campo di atletica, la possibilità di correre. Prima si accennava appunto all'orrore, all'uccisione, cioè il fatto che il padre uccide il fratello nella neve, quindi uno si può immaginare delle scene insomma piuttosto cruenti. Eppure tu in questo romanzo sfiori semplicemente l'orrore, ci dai così come un flash, non vai a fondo, lasci al lettore la possibilità di immaginare il trauma che può avvenire nella mente di una persona. Perché hai fatto questa scelta che io personalmente ho apprezzato moltissimo? Ti ringrazio, perché è anche fa parte anche del mio percorso d'autore, ecco, così come da lettore cerco sempre una partecipazione, cioè cerco autori che mi facciano partecipare, no? A raccontarsi di una storia. Allo stesso modo io cerco di replicare questo meccanismo d'autore, cioè non alimentare nella mente del lettore con alcuni flash l'innesto di una storia, no? E quindi in questo caso sono delle fotografie, forse sono le foto del ricordo che lui si porta dietro, quelle che nella mente si è più volte rimmaginato, no? In futuro. Poi sta un po' anche al lettore aggiungere i propri colori, le proprie sensazioni, i propri odori, no? Di quelle scene. Io mi annoio mortalmente dal lettore quando trovo tutto lì, no? E mi si vuole ricondurre a un personaggio ben preciso, a una scena. Mi piace più sognare, ecco, immaginare. Per me la lettura è molto anche partecipazione, non soltanto intrattenimento, anzi non è intrattenimento, e quindi questo è quello che ho tentato di fare. Insomma, tu non ci faresti mai un film da un tuo libro? Vedrei volentieri il film di un altro, ecco, oppure, non lo so, sentirei di dover aggiungere molto, molto di più. Trovo che siano lavori, mestieri molto diversi, alcuni delle persone che fanno... Entrambi li fanno bene, altri meno. Però, altri meno, insomma. Però spesso si rimane delusi per quando si vede un film e si è amato moltissimo un libro. La corsa rappresenta tutta la vita per questo protagonista che non ha nome, insomma l'abbiamo chiamato il centometrista. Rappresenta tutto, tanto che riesce in qualche modo a fare a meno della corsa solo nel momento in cui ha accanto una donna, la sua donna, Caterina. Lei rappresenta, come dire, il surrogato della corsa? Cioè questo protagonista non sa stare senza una stampella nella vita? È una possibilità, perché lui crede di poter tornare a essere una persona normale soltanto quando, normale secondo la sua idea, insomma, quindi rinunciare a quello che è la corsa ma anche agli orrori del mondo intorno alla corsa. Quindi qui poi si toccano argomenti diversi che... stanno un po' allo sport, come il doping, insomma si fa, esatto. si capisce che sta parlando, sì, di doping. E comunque appunto il fatto di essere da corridore più una marionetta nelle mani di poteri più forti che non un protagonista, ecco, di una pista. E quindi ecco, questo viene a mancare, cioè sente che può essere lasciato indietro soltanto quando incontra l'amore. Dice che è stato un amore perfetto quando lo racconta, che non è durato molto, però non ha rimpianti, non sente di aver investito tutto. Lasciare la corsa, dare una possibilità a questa storia, fa parte di questo gettarsi dentro la sua storia d'amore. Ci sono delle... sta tornando la parola orrore, no? In questa chiacchierata, però in realtà ci sono delle pagine, secondo me, molto luminose anche. Sì, infatti non è sicuramente... Ecco, alcune di queste vengono dal passato con il fratello quando era ancora vivo, dai giochi fra di loro, altre vengono dalle immagini della sua storia con Caterina, che sono rare, però ci fanno capire, ecco, che potevano veramente riservare dei colori, probabilmente li hanno riservati, fino a che, punto numero due dell'incipit, anche la presenza di Caterina non esiste più, insomma. Il protagonista ha un rapporto così viscerale con la corsa che è disposto anche ad annientare il suo corpo. Prima si faceva riferimento al doping, per esempio. Lui senza corsa non esiste. È quello che deve tornare a pensare quando Caterina se ne va e vede nei fatti dei giorni precedenti una serie come una sorta di cospirazione. Tutto intorno a me premeva perché io tornassi a correre, no? Non potrò mai avere una donna, non potrò scegliere una casa liberamente, perché vede nella scelta della casa in realtà l'errore più grave che poi porterà alla separazione. Non potrò avere figli perché le sostanze l'hanno probabilmente... Certo, le sostanze che ha assunto, che gli hanno fatto assumere, l'hanno reso sterile. Esatto, probabilmente sterile. Quindi tornare adesso, dopo quegli anni, a correre, farlo a livelli in cui si capisce lui lo fa, dice o stai qui dove sto io adesso a correre questa corsa così importante, oppure ti fai problemi con le sostanze che ti danno. Il mio corpo lo gestiscono loro. Quasi sembra non sapere neanche realmente quello di cui ha bisogno per andare così forte. Così allo stesso modo dice, un giorno smetteranno di... non servirò più alla loro pista giocattolo. Ecco, e a quel punto l'interruttore girerà ancora e il giocattolo si fermerà. Ma tu perché hai scelto questo escamotage dei pochi minuti in cui si prova la partenza? Perché insomma i 100 metri durano pochi secondi, una manciata di secondi, però i minuti che portano alla falsa partenza, così, perché hai scelto questo escamotage? Sei un appassionato di corsa di velocità o cosa? Ho anche corso da ragazzo, fino quasi alle soglie del professionismo. C'era da scegliere quanto investire in quella corsa, quanto no, e poi ho tirato indietro. Però ecco, vedo adesso e ascolto e sento questa idea del poco che si pensa quando si corre, no? Perché sono 10 secondi. In realtà secondo me raccolgono molto, no? Anche da un punto di vista proprio del lavoro mentale, cioè non soltanto dell'emotività. E sono terribili e sono interessanti da indagare i pensieri che precedono la corsa. Io credo che per correre, la penso un po' come il mio protagonista, come il centometrista, che per correre bene non serva granché pensare, cioè serva uno sparo e andare via. Forse l'impegno più grosso per chi lo fa a certi livelli è proprio tenere sgombra la mente da altre frequenze che la possono distogliere, no? Quindi la concentrazione è più tenere fuori dai pensieri quelli che possono provocare il blackout della sconfitta. Il nostro protagonista è un eterno secondo, fra virgolette, no? Ha un cassetto pieno di medaglie d'argento. Eppure i rivali che incontra in questa finale li ha tutti battuti, mai tutti È assieme, una dice lui. sorta di Quindi corsa della vita, sì, è insomma, una lui sorta, vuole non un sappiamo neanche poi riscatto. quanto reale o meno. Io credo di aver creato anche in questo una sorta di altrove in cui, no, si corre la sua gara definitiva. Ecco, per scacciare forse anche il demone del secondo posto, che magari nasce all'interno della sua mente e non sulla pista, ha bisogno forse di tenere lontani o di saper dominare certi pensieri. Sono quelli che affrontiamo poi leggendo il romanzo. Emiliano Gucci, oltre ad essere uno scrittore, è anche un libraio. Ha lavorato per anni alla Feltrinelli di Firenze e adesso nella Feltrinelli di Prato. Questo sappiamo è un momento molto difficile per i librai e le librerie. Insomma, abbiamo notizie di librerie indipendenti che chiudono, anche quelle di catena, insomma, a volte arrancano. Tu come libraio, che tattica utilizzi con il cliente che entra in libreria e ti chiede consiglio? In che modo si può appassionare il potenziale lettore? Intanto volevo dire una cosa che spendo sempre quando si chiacchiera di questo argomento, no? Del salvare il libro, che il libro non si salva né parlandone né leggendolo, va acquistato, perché altrimenti poi si può Certo. anche comprare 10 libri al mese e metterli sul comodino, però il Non ha meccanismo senso. si rompe lì. Intanto va individuato, credo, quando non si conosce la direzione in cui la persona che è davanti va, no? Perché uno dei vizi dei librai è consigliare sempre i propri libri preferiti. Eh no, bisogna Non capire i sempre gusti funziona. dell'altro. Esatto. A quel punto lì il compito diventa: se qua davanti a me per comprare un libro devo vendertene due. Questo è un pochino il meccanismo, che da una parte è commerciale, fra virgolette, no? È anche un po' meschino. Dall'altra, però, in chi lo fa con passione, non so, ha anche un lato poetico. Io quando una persona poi torna e ha letto un libro consigliato, che magari non è uno dei miei libri preferiti, ma semplicemente ho indovinato, no, la sua direzione, Sì, insomma, c'è forse è soddisfazione. quella la vera soddisfazione del libraio. Più che non convincere che quel libro è buono, perché in assoluto è buono. Forse in assoluto i libri buoni sono veramente pochi. Il gusto personale, si sa. Grazie Emiliano Gucci, ora in libreria con Nel Vento, pubblicato da Feltrinelli. Tempo di lettura circa 2 ore e 2 ore e mezza. Vi ricordo che trovate queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su www.radio24.it. Potete scrivermi i vostri commenti su questo e sugli altri romanzi a ilcacciatoredilibri@radio24.it. Un saluto da Alessandra Tedesco.